Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. È vero, è vero. M2O, musica allo stato puro. Se ripide sicuro, se dico fermate. Cammino di Gigi D'Agostino, tutto a posto.

never flop. Cammino di Gigi D'Agostino, tutto a posto. Mogaci via questo. Fa un programma strano, il cammino di Gigi D'Agostino. Allora non l'ho sentito, non era male. Stai a capire, frate. Dai un po' sulle mani che ho comprato pure effetto nuovo. Sulle mani tutti quanti, tutti insieme, forza. Gigi D'Agostino. Musica. It's time for hell to be raised as I kick some lyrics on a beat her made. It's time. sto. E mentre lo scecco la paglia rusica, maestro, musica! Cammino del Gigi D'Agostino, tutto a posto. Sì. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. D'Agostino, mica noccioline. Ecco qua, va. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Passeggiare ovunque. Mi piace pasticciare con i miei colori anche fuori dal foglio. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Siamo in tanti e andiamo avanti. Tutti insieme siamo giganti. Oh, vuole abituare a nulla, ma vuole scegliere continuamente di camminare sotto una luce non apparentemente luminosa, ma meravigliosamente splendente. Gigi D'Agostino. Piacere, prestiamo attenzione perché non siamo allo snocciolatoio pubblico. Sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Concentrazione. No, vabbè. Siamo al reparto olive. Non è che siamo qui a snocciolare, eh? No, poi dicono a lavorare tutti, forza. Cammino bastardo, perché ogni tanto ti aspetti che vada da una parte e poi lui invece se ne va proprio tutto dall'altra. D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino, di Gigi D'Agostino. molto bella. Mani al cielo per questo brano. Piacere, non giochiamo sul comodino. Proseguiamo sto cammino. Frequenza è codesta e la musica pesta. No, poi dicono che non riesco a fare le rime. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Suoni e ritmi da scantinato. Qualche suono maltrattato. Nel programma col cuore di un bambino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Non c'è niente da guardare. Questa è una radio, non è un telegiornale. Non giochiamo. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non siamo al reparto olive. Noi è che siamo qui a snocciolare. Cielo per questo brano. Oh.